Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna è stato finito. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! O te sputo che fai? Buongiorno! Buongiorno un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! E buongiorno a tutti, buongiorno un cazzo. Come avrete capito, questa sarà una puntata un po' comunista, però è l'occasione per raccontare alcune cose, alcuni passaggi anche della mia vita, un pezzo di me, che è figo, insomma, capire magari certe evoluzioni, certi percorsi come possono aver avuto modo. Poi tutto prende un po' ispirazione dal fatto che nel fine settimana scorso Michele è andato a vedere Ascanio Celestini. Ci sarei dovuto andare pure io, ma per non trasformare la serata in Runtime by Night ho preferito rimanere a casa, ma poi me lo sono rivisto su RaiPlay, perché su RaiPlay praticamente c'è la versione completa, anzi forse estesa anche, dello spettacolo, perché nello specifico a Monterotondo tutti gli inserti video che sono inseriti, le piccole interviste, mi sembra che non ci siano, insomma. E quindi niente, praticamente è andato a vedere questo spettacolo molto interessante, probabilmente ne parleremo anche diffusamente per altre situazioni, e in concomitanza al fatto che sempre su RaiPlay io e Michele abbiamo visto diverse puntate di La Notte della Repubblica, in linea di massima, insomma, ci rendiamo conto quanto molte delle persone che oggi parlano di politica, che prendono posizione, che votano, non sanno veramente da dove viene il tutto, da dove vengono tutti, insomma, e da dove viene anche le varie situazioni, i vari contesti anche dal punto di vista politico. Però prima di iniziare nel vivo, comunque volevo dire che intanto dare il buongiorno a tutti e soprattutto ricordarvi, così non c'entra niente, che però è uscito il grande mini documentario su Elettroludica, il museo dell'intrattenimento elettronico, che si trova ad Avezzano, insomma, che noi abbiamo lavorato, ci abbiamo messo un po' a farlo uscire, ma è uscito e devo dire che ha riscontrato un grandissimo successo, molto di più di quanto noi stessi ci si potesse aspettare. Siamo stati veramente contenti di questa cosa, perché chiaramente, insomma, come sempre noi ci mettiamo il massimo dell'impegno in quello che facciamo. Detto questo, poi ovviamente magari torneremo anche a parlarne un po' alla fine, proprio per capire, insomma, poi i riscontri. E vi dicevo, questa è una puntata un po' comunista, diciamo, la possiamo definire un po' comunista, e quindi la apriamo così. Vabbè, questi sono gli Area con l'Internazionale, la loro interpretazione in un live del 79, quindi insomma immaginate che la qualità della registrazione è sempre un po' relativa, però merita sempre, perché penso che non l'abbiamo ancora mai passati, credo, insomma, perlomeno io no, quindi alla fine ho dovuto farlo, perché insomma qui stiamo parlando di quando la musica italiana faceva la roba con i controcoglioni e poi dopo sono spariti, cioè nel senso poi dopo è arrivato Toto Cutugno, no, già c'era Toto Cutugno, però vabbè, insomma, è inutile tornare insomma su questo tipo di argomenti, e quindi io faccio così ci leviamo un attimo di mezzo gli Area e vi leggo questa cosa. Voi sapete che io non so leggere, quindi abbiate un po' di pazienza, perché allora, il Partito Comunista Italiano si ispira ai valori della Costituzione Repubblicana, della Resistenza e dell'antifascismo e si richiama ai migliori patrimonio politico, ideologico e dell'esperienza storica del PCI, da Gramsci a Berlinguer e in particolar modo al pensiero gramsciano e togliattiano della sinistra di classe, della sinistra di classe italiana e del movimento operaio e comunista italiano ed internazionale, alla migliore tradizione, perché sempre la questione della tradizione è importante, marxista-leninista e delle migliori esperienze del socialismo scientifico, delle conquiste dei movimenti e per la pace e l'antiimperialismo scusate, e le lotte ambientaliste, antirazziste e di genere per i diritti civili. Allora, questa scritta, che ovviamente è l'articolo 1 del Partito Comunista Italiano nella sua ultima era, era stampata bella in evidenza sul cartoncino plasticato lucido con sfondo rosso dell'ultima testa del Partito Comunista Italiano, che non ricordo che numero di tessera fosse, non ricordo quanto costasse tanto, ma fu una cosa che io mi conquistai, diciamo, con dei lavoretti e roba del genere, e invece di comprare magari tante cazzate mi sono andato a comprare la tessera del Partito Comunista. Poi dopo questa cosa si è ripetuta negli anni, come mia moglie ogni tanto, insomma, disperata ci tiene a ricordare, perché praticamente io vado in giro, insomma, a mandare erogazioni di denaro ai partiti comunisti nel resto del mondo. Ma al di là di questo, la cosa interessante di questo racconto, in quel periodo particolare in cui ovviamente magari quei ragazzi come me a malapena sul confine della maggiore età, quindi la possibilità di votare ovviamente per la Camera dei Deputati, perché ricordiamo che per il Senato poi ci vogliono 25 anni, ci volevano allora, non so, penso ci vogliano ancora oggi, e la possibilità di votare mettendo la X su quel simbolo che in qualche maniera aveva rappresentato qualcosa per la storia di questo paese e che io, per quanto giovane, per quanto ragazzino, sentivo la pesantezza di questa cosa, anche se non avevo gli strumenti per poter capire veramente l'importanza. Quindi era più un coinvolgimento ideologico, emotivo, quasi d'appartenenza affettiva, piuttosto che una vera comprensione globale di quello che era ovviamente il partito e di quello che stava per succedere da lì a breve. Ovviamente, e qui ritorniamo un po' allo spettacolo di Ascanio Celestini, quando si diceva vabbè, cioè ai comunisti si diceva se volete governare dovete diventare meno comunisti, più socialdemocratici, no? E alla fine in realtà soprattutto l'ultima parte della storia del Partito Comunista Italiano c'è stato, e si sa storicamente, un profondo distaccamento da quello che era un po' l'impronta ideologica, tant'è che il Partito Comunista Italiano era l'unico partito comunista all'interno dell'Internazionale Socialista, non era all'interno dell'Internazionale Comunista. Questa transizione ha fatto avvicinare al Partito Comunista tutta una serie di entità che non si identificavano nel comunismo o nella lotta di classe in quel modo, oppure nella cancellazione della democrazia in favore della dittatura del proletariato, ma si riconoscevano in un concetto, in un contesto forte che era appunto a favore della lotta per i diritti civili, per l'antifascismo, per l'ambientalismo, per i diritti delle donne e via dicendo. Questa cosa ha comunque fatto aprire una grossa discussione all'interno del partito, un partito che aveva tre anime fondamentali. Una, l'anima sovietista, che ancora c'era ed era assolutamente innegabile, per quanto profondamente in minoranza. La seconda, l'anima comunista tradizionale, quella che voleva comunque che il partito rimanesse con la sua identità, anche se iniziasse ad applicare delle politiche diverse, quindi un avvicinamento al mondo socialista e socialdemocratico del nostro paese. E la terza anima, che poi è quella che ha vinto, quella che voleva che il Partito Comunista Italiano si trasformasse in maniera effettiva e veramente importante in un'altra entità che fosse diversa dal Partito Comunista Italiano. Ciononostante, all'interno del simbolo di questa nuova entità, sotto nelle radici di questo albero che poi fu il simbolo del Partito Democratico della Sinistra allora, c'era ovviamente il simbolo del Partito Comunista, cioè comunque doveva essere rappresentativo del fatto che per quanto ci fosse stata una trasformazione socialdemocratica, un'attenzione alla visione socialista del mondo, chiaramente quella doveva essere il punto di partenza, il punto da dove arrivavamo, la nostra provenienza, quindi la nostra tradizione storica e politica. Questo ovviamente fu quello che successe, poi alla fine comunque la corrente di Achille Occhetto, che era allora il segretario del Partito Comunista, che ha fatto gravare totalmente sulle sue spalle l'incombenza storica di una trasformazione così determinante e grossa, grande, insomma. Perché dovete sempre considerare, stavamo parlando del Partito Comunista Italiano, un partito non solo importante a livello internazionale, ma comunque anche monolitico, cioè è comunque fortemente incastonato su quello che erano ovviamente le regole di partito, cioè nel senso quello che il partito dice all'interno non si discute, e soprattutto all'esterno, no? E quindi questa grande trasformazione in realtà portò da un certo punto di vista una visione nuova, un'aria nuova in qualche maniera, quel qualcosa che sembrava ci potesse comunque portare in una nuova dimensione, in un nuovo contesto. Tutte quelle realtà che giravano intorno al Partito Comunista, quindi quelle associazioni di area di sinistra, ma anche cattoliche, che comunque si riconoscevano in parte in quello che erano quel tipo di politica, ma non si riconoscevano in quel tipo di simbolo, comunque in qualche maniera hanno avuto l'opportunità, anche da statuto, per ragioni che adesso vi vado a spiegare, comunque la possibilità di entrare all'interno di questa nuova realtà che avrebbe dovuto essere la cellula della politica di sinistra del futuro italiano. Revolution now. è un Josh Woodward che non ti aspetti con Revolution Now, insomma, di solito lui fa le canzoncine, quelle smelenzine, che ci ha accompagnato per 12 anni di podcasting, grande Josh Woodward. Una volta vorrei scrivergli una mail per ringraziarlo. Grazie Josh per tutte le volte che abbiamo passato a sbafo le tue canzoni, ma lui era contento. C'era un periodo che cagava canzoni a rotta di collo, diciamo così, quindi insomma alla fine piaceva questa cosa di fare le canzoni pod safe che potevano essere utilizzate ovviamente dai podcast amatoriali come il nostro. Dunque dicevamo che Achille Occhietto si è preso sulle spalle questo onere storico importante, ed è un onere che qualcuno ha visto quasi come il cedere il passo a un ricatto storico e morale rispetto a quello che era ovviamente la gestione della sinistra italiana. E tant'è che io mi ricordo una volta che a casa, discutendo con dei miei amici, c'era anche mia madre, io dicevo: perché questa è tutta una menzogna, ma un giorno, quando vinceremo le elezioni, diremo che ha vinto il comunismo in Italia. E c'era mia madre che mi guardava e diceva: ma da quando è che sei diventato un fanatico del comunismo? Ma non perché la famiglia di mia madre in generale, a partire da mio nonno partigiano, è sempre stata una famiglia fortemente di estrazione di sinistra. Poi mia zia, crescendo, è diventata una repubblicana, ma questa è tutta un'altra storia, insomma. E alla fine questa visione del ricatto in realtà era, secondo me, è stato un momento di grande lungimiranza storica, perché allargava ovviamente all'unico partito monolitico della sinistra italiana la possibilità di, appunto, di far aggregare all'interno delle altre realtà. Da statuto nel Partito Democratico della Sinistra potevano aderire associazioni che, pur non essendo parte integrante del partito, da statuto avevano appunto voce in capitolo all'interno del partito. Quindi si creava praticamente questa realtà molto fluida, idealmente e concettualmente molto fluida, ma sicuramente profondamente legata a quello che è ovviamente il territorio, alle associazioni, alle realtà che avevano bisogno di un certo tipo di supporto, insomma. Quindi c'era un coinvolgimento politico all'interno della sinistra da parte di quelle realtà che spesso dovevano bussare 40 volte alle porte dei partiti per farsi ascoltare e magari per far fronte magari a delle esigenze o delle problematiche che magari i partiti in quel momento ignoravano, oppure preferivano ignorare, diciamo così. Questo è stato il bene del Partito Democratico della Sinistra, allo stesso tempo è stato il male, perché chiaramente ha portato poi all'interno, per ovvie ragioni, realtà di ogni genere, e forse alla fine non c'è stato un grande controllo da questo punto di vista. Non si guardava la cosa con grande fiducia da una parte e si sfregava le mani da quell'altra, perché più roba entrava all'interno del Partito Democratico della Sinistra e più in teoria il Partito Democratico della Sinistra diventava una cosa grossa. In realtà ovviamente questo non è stato, ha soltanto creato tutta una serie di disgregazioni all'interno del partito stesso, che hanno poi portato alle trasformazioni sequenziali successive, che poi lo hanno completamente trasformato. E adesso, oggi, il Partito Democratico è il frutto di un risultato che appunto è stato dovuto a battaglie, a disgregazioni, a separazioni, a non riconoscimenti e alla cancellazione di quello che stava scritto poi sul primo articolo che stava stampato sulla tessera del mio partito comunista, l'ultima tessera, perché fu l'ultimo anno. E quindi alla fine per me aveva un'importanza, no? Perché era un po' come essere un po' gli ultimi comunisti, no? In qualche maniera, no? Dove c'era scritto che comunque il partito si rifaceva a tutta quella tradizione storica, democratica, antifascista, repubblicana, e a favore dei diritti civili. Tutto questo alla fine è stato cancellato fondamentalmente. E questa cosa ovviamente è stata alimentata da un processo che era in atto già da tempo, cioè da fondamentalmente dal fascismo, dalla fine del fascismo, anche perché, come ci ha raccontato Ascanio Celestini e come ci raccontava Enrico Zauri nella Notte della Repubblica, alla fine questa transizione tra fascismo e post-fascismo in Italia non c'è mai stato. Le stesse persone che gestivano le cose prima le hanno gestite dopo, e anzi la Democrazia Cristiana, per sostenere il suo antifascismo, per impedire e per insomma aiutare gli americani a non far arrivare comunque la sinistra al potere, erano disposti anche a collaborare con quello che era ovviamente l'ex partito fascista, con tutte quelle che sono state le conseguenze. E questo tentativo di demonizzazione costante del Partito Comunista in Italia, che forse in alcuni momenti aveva anche senso, tutto sommato, se vogliamo proprio andare a prendere un po' le cose insomma dal lato giusto della storia, poi ovviamente si è amplificato sempre di più con quello che ve l'ho raccontato tante volte, che è stato poi ovviamente la Gladio, ma anche la P2, tutte quelle realtà che lo Stato improvvisamente diceva ma che schifo, ma poi che in realtà nascevano dallo Stato stesso, e nascevano ovviamente da tutte quelle realtà che erano ancora in post transizione, diciamo così, no? Che non accettavano i famosi due colpi di Stato accannati, perché ovviamente poi vengono spiegati. Però questa cosa poi si sintetizza in maniera concreta e effettiva con la P2, perché la P2, Licio Gelli lo disse praticamente, noi l'unica cosa che non abbiamo saputo fare è stato quello che è riuscito a fare Berlusconi, no? Con praticamente la sua azione così capillare e l'utilizzo di uno strumento che probabilmente inizialmente magari la P2 aveva sottovalutato, quindi la televisione, per la costruzione di un anticomunismo che si è talmente insinuato così profondamente nella coscienza del nostro popolo, che alla fine coloro che avrebbero dovuto difendere quel tipo di tradizione e radice, estrazione politica e ideologica, alla fine si sono sentiti quasi in dovere di dire comunisti noi, ma che, ma quando mai? I know you like it, lo so che te piace, questo è Chris Charles. featuring John Wet. Quando metti due consonanti appiccicate una presso l'altra è un mistero per me come si legge. Comunque, in quell'epoca là io ero un giovanotto baldanzoso e pieno di energie, di retorica all'interno di tutti gli discorsi che facevo. La gente mi stava ad ascoltare, era quella la cosa bellissima, che io parlavo e gli altri parlavano e dicevo cose senza sapere bene cosa realmente dicessi o se veramente avevo capito il senso di quello che stavo dicendo, ma quello ci sta, insomma, a un certo momento della propria vita. Però, come si dice, carne da porco, no? Cioè tutto fa brodo, via, buttamolo in mezzo al calderone, in un'epoca in cui già si capiva che quello che era il rapporto delle scuole di partito piano piano si andava spegnendo, perché voi dovete considerare che il Partito Comunista Italiano, utilizzando comunque anche i fondi che ovviamente venivano dedicati dallo Stato ai partiti, utilizzava tutti questi soldi per gestire questa struttura mastodontica che non era solo la sede del partito, ma era comunque tutte le attività collaterali, compreso ovviamente il Partito Comunista, cioè aveva questa scuola politica a Frattocchie. Insomma, Frattocchie sta, quando prendi la Tuscolana, manda a Grottaferrata, tra Roma e Grottaferrata, i Castelli Romani, cioè c'è Frattocchie, c'era questa bellissima scuola politica, tra l'altro con delle sale incredibili, molto belle, e qui infatti ci arriviamo. E quel periodo, appunto, io facevo tante feste all'Unità, lavoravo insomma con, ma tra l'altro in un io avevo aderito a una sezione politica che era quella di Ardea, che stava lontanissima da casa mia, cioè che d'estate sì, ok, perché era il posto dove andavo in vacanza, ma per quanto riguardava l'inverno ogni volta prende sti pullman per andare, insomma, no? Per partecipare alle riunioni. E ma partecipavo lì perché insomma uno dei miei più grandi amici, insomma la persona con cui ho fatto la seconda parte del mio percorso politico, si trovava lì, e insomma noi avevamo aderito ovviamente alla sezione, facevamo politica di sezione, partecipavamo agli incontri e via dicendo. E noi come membri della sinistra giovanile, quindi l'ex FIGC, la Federazione Giovani Comunisti Italiani, con la transizione del Partito Democratico della Sinistra, si chiamò la sinistra giovanile, nome così, insomma, senza né arte né parte, cioè sei sinistra e giovanile, importante è che sei giovanile, questa era una cosa importante. E in quel periodo noi ovviamente come sezione d'Ardea facevamo parte di una immensa federazione politica che era quella dei Castelli Romani. La federazione del Partito Democratico della Sinistra dei Castelli Romani partiva dal mare, quindi ovviamente per chi conosce un po' la geografia, diciamo da Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea, Tor San Lorenzo, fino a Colonna, Cave, insomma veramente un pezzo incredibile di Roma Sud, gigantesco, e insomma all'interno ovviamente di quell'area lì c'era questo segretario della sinistra giovanile che cominciava a diventare un po' vecchiotto, non tutti lo vedevano di buon occhio perché sì, era un bravo cristiano, però un po' moscetto, un po' servo di partito e via dicendo, serviva una rivoluzione. E quindi si chiese praticamente, anche in un modo che a me non piacque molto, perché poi alla fine non dico che mi ero affezionato, però comunque non avevo capito che la politica doveva prescindere dai rapporti umani, io questa cosa non l'avevo ancora capita, insomma. E quindi mi dispiacque anche, però insomma alla fine si chiesero le dimissioni e si indisse ovviamente questo congresso che si tenne a Frattocchie. E però tra le varie realtà, insomma, dei Castelli Romani, che sono realtà totalmente diverse fra loro proprio per l'immensità dell'area politica, non nessuno ci si metteva d'accordo, chi era quello, chi faceva quell'altro, roba del genere. Alla fine io dissi: vabbè ragazzi, mi candido io come segretario della Federazione dei Castelli Romani, e tutti mi guardarono: ma questo che cazzo è? Prima, molti hanno detto così, e altri hanno detto: vabbè, buttamolo in mezzo, così almeno qualcuno, insomma, si piasta bega, che gli altri evidentemente non si volevano prendere. e feci questo congresso con un programma politico anche bello, a me mi piacque molto proprio anche presentarlo, no? E tra l'altro questa cosa importante, che avevo inserito all'interno del programma alcune cose che non erano propriamente simpatiche, no? A quello che era ovviamente la politica, no? Però secondo me erano parzialmente compatibili, no? Comunque vabbè, al di là di questo poi fece un sacco di storie, cioè nonostante io me ne so fottuto, e quindi io mi presentai, mi candidai, presentai il mio programma politico, feci il mio comizietto. Poi ci furono praticamente le battute finali. Io tra l'altro fui fortunato secondo me da un certo punto di vista, perché fui il secondo praticamente tra i due candidati che erano rimasti, tra me e un altro ragazzo. Fui praticamente il secondo, quindi parlai per ultimo fondamentalmente. E questo secondo me un po' alla fine tante volte gioca, no? A parte perché lui a un certo punto, l'altro ragazzo, cominciò a dire che cosa rappresentava un segretario della Federazione dei Castelli con un segretario che veniva da Roma, quindi che era al di fuori del territorio, che tutto sommato non era sbagliato, cioè nel senso aveva ragione, anche se io conoscevo bene il territorio dal quale venivo tra virgolette, però ero comunque una persona al di fuori, cioè era giusto che comunque si sviluppasse un'entità politica all'interno di quello che era il territorio, per quanto vasto fosse. E praticamente niente, insomma, io alla fine presi la parola e dissi che mi vergognavo di stare all'interno di un partito dove si ragionava come si fa con la Lega Lombarda, ossia la persona che viene da fuori viene riconosciuto come un alieno. Ovviamente tutto in crescendo, no? Con insomma, alzando la voce, no? E tutti bravo, alla fine momento bellissimo, non dimenticherò mai, perché alla fine per quanto sia, no? Era comunque un momento particolare nella mia vita che infatti cambiò tante cose, cambiò forse è lì un po' come si dice Ascanio Celestino nel suo spettacolo, quando dice quando il Partito Comunista perse la sua virginità, no? Cioè in qualche maniera, e forse secondo me è quello che è successo a me, cioè quando poi sei passato da quella visione romantica della politica alla costruzione di un pensiero diverso ficcato dentro per forza di cose, perché sei entrato in una nomenclatura, in un contesto politico e partitico che probabilmente non conoscevi e non ti aspettavi, diciamo così, no? Perché come segretario della Federazione Castelli ero comunque anche delegato al voto al Consiglio Nazionale ed ero parte esecutiva nel Consiglio Regionale, quindi alla fine comunque ero entrato così dal niente, da una tessera a cazzo, ero entrato nelle stanze di via delle Botteghe Oscure, quindi per me era da una parte insomma rilevante come cosa, era quasi il raggiungimento di un mito, dall'altra è stato poi un disastro. Venne il giorno del mio primo consiglio nazionale. Fu un'esperienza bellissima, una l'ultima bellissima esperienza all'interno della politica, in generale, del mio partito, del partito al quale avevo votato a favore proprio perché credevo nella possibilità di far crescere quella sinistra con quel contesto, con quell'idea, con quello statuto, con quel modo di vedere le cose. Che era così diverso dal Partito Comunista Italiano, era così aperto, così democratico, così uguale a prima, poi fondamentalmente. E a questo Consiglio Nazionale conobbi tante persone lì a Via delle Botteghe Oscure, nella sala principale. Eravamo tutti attenti ad ascoltare un giovane Zingaretti che è da poco il segretario nazionale della sinistra giovanile del postcomunismo. È stato colui che ha accompagnato Achille Occhetto da ragazzino a quello che era la nuova sinistra giovanile, ma era già un politico formato, era già una persona con un'esperienza e una preparazione da un certo punto di vista. Ma purtroppo la preparazione e l'esperienza, anche dal punto di vista della scuola del partito, spesso e volentieri non aiuta quando la personalità è una personalità relativa. Quindi alla fine anche questi segretari delle realtà giovanili avevano o non avevano il sorriso del partito a seconda delle situazioni, e quindi andava avanti chi riusciva a contestualizzarsi bene le nomenclature, a farsi le conoscenze giuste, a sapere quali tasti premere piuttosto che no. E questo è quello che fa la politica, insomma, fa un uomo politico una persona con delle speranze, con delle possibilità. Durante questo Consiglio Nazionale, dove io feci anche un intervento e fui anche felice, tra l'altro, perché è una cosa, non fregava un cazzo a nessuno di quello che c'avevo da dire, ma in realtà dopo che aveva parlato Zingaretti e che ognuno aveva fatto le proprie espressioni di voto, diciamo così, esternazioni di voto, insomma, poi alla fine lì il discorso era finito. Però conobbi tanta gente, conobbi molti ragazzi, molte federazioni, conobbi la federazione di Bologna, e c'era sto ragazzo biondo che era il segretario della federazione di Bologna che venne da me, mi faceva: ma tu sei il segretario della federazione Castelli, sai che è una delle più grosse federazioni in Italia quella, tu sei la federazione Bologna, cioè, ragazzi, ma di che stavamo a parlare? Ah, che bello. Ma senti, dopo queste elezioni, c'erano le prime elezioni del Berlusconi, ragazzi, vabbè, e dopo le elezioni, se vuoi, ci mandiamo dei fax, ci scambiamo degli intenti e facciamo una sorta di gemellaggio. Voi venite su, facciamo delle attività sportive e culturali e noi veniamo giù e facciamo la stessa cosa. Ma che scherzi, ma magari, che bellissima cosa. E vai, insomma, già, insomma, si pregustava il fatto di conoscere tanta gente. E poi passarono le elezioni, vinse Berlusconi. Noi venivamo da una realtà che era quella del Lazio, quello dove c'erano già le infiltrazioni della Camorra, dove c'erano tutta una serie di problemi, dove all'interno del partito stesso, grazie ovviamente alla trasformazione in PDS, quindi dove non c'era più quel controllo di ingresso, diciamo così, all'interno c'erano delle realtà brutte, molto brutte, insomma, con delle collusioni, con delle cose, insomma, che non erano assolutamente belle. E noi combattivamo questa cosa, no? Lo dicevamo ai nostri segretari di partito, lo dicevamo, insomma, facevamo varie denunce, anche probiviri, insomma, faremo delle inchieste, vediamo. Ma loro se ne fregavano, perché io quando sono entrato nella Federazione Castelli, quindi quando sono entrato nel mio ufficio, nella segreteria, c'erano, la prima cosa che feci è la riforma del tesseramento, cioè controllai tutti i tesseramenti, e praticamente alla fine risultò che noi avevamo un terzo in meno dei tesserati che erano dichiarati. Perché? Perché buttavano là, cioè continuavano a fare questi tesseramenti, gente che era morta, gente che non c'era più, gente che non aveva più l'età, però quello serviva ovviamente per gonfiare un po' i numeri, e già questa cosa aveva un po' fatto girare i coglioni a un po' di gente. Più mandai questo fax a Bologna successivamente, dove io feci questa analisi, secondo me, del perché insomma, avevamo perso e tutto quanto, e poi ci fu la parte dove io lì in invitavo praticamente a... Ma prima di questo ovviamente noi facevamo anche riferimento, nonostante le nostre segnalazioni, purtroppo anche nelle nostre realtà ci sono cose che ci avvicinano a quelli che noi consideriamo il nostro un modo nemico di fare politica, no? Cioè nel senso e quindi in fondo in realtà come con che faccia ci presentiamo agli altri dicendo che noi siamo quelli onesti se già all'interno delle nostre organizzazioni. E questo fu forse il... Mio padre me lo disse, devo dire la verità, che mio padre mi disse non mandare questo fax. Lo dico per te, cioè nel senso, poi mio padre era completamente avverso a quello che io facevo, però ciononostante non mi ha mai impedito, e se comunque diceva qualcosa, alla fine comunque la diceva sempre con una cognizione di causa. Poi dopo tu non l'ascoltavi perché eri ragazzino e io però mandai questo fax e dopo 5 giorni mi arrivò una telefonata dove praticamente ero stato convocato a via delle botteghe oscure giù al secondo piano, al regionale. E io andai e mi chiusero dentro una stanza, non vi dico che mi hanno menato, perché non mi hanno menato ma quasi, è come se mi avessero menato fondamentalmente, perché è stato il momento più brutto della mia vita. Il principio è che il partito non si discute e la finalità di questa cosa è che dovevo stare attento perché quel fax erroneamente, per sbaglio, poteva finire così magari nella scrivania di qualche magistrato e quindi io sarei stato insomma il partito avrebbe preso le distanze da me e anzi mi avrebbero denunciato per diffamazione. E qui è finita ovviamente la mia carriera politica all'interno del più grande partito della sinistra italiana. Vabbè, c'è mo da fare, ragazzi, quindi purtroppo indistruttibile se lo sentiamo un'altra volta. E devo dire la verità che io non so neanche se queste cose avrei potuto raccontarle. Poi dopo ci ripenso e dico, non so se la pubblicherò sta puntata, ma penso di sì, comunque vediamo. E in generale sono sempre cose che sono successe. Poi se un giorno dovesse arrivare qualcuno che ascolta, oh, ma questo se mi ha raccontato, e improvvisamente questa trasmissione finisce nella scrivania di un magistrato e poi il partito prende le distanze da me, anzi mi denuncerà per diffamazione. E questo è stato il modo in cui avevo capito che era cambiato tutto, ma era cambiato, le cose che dovevano cambiare non erano cambiate. E questa era ancora peggio, perché questa visione ancora monolitica del partito indiscutibile e intralciabile anche di fronte alla denuncia delle situazioni che erano vere, insomma, evidentemente quel mio breve percorso nella politica tra tesseramenti e piccole riformette che avevo fatto, insomma, stavo un po' sul cazzo, ma c'è una ragione, cioè nel senso, dal loro punto di vista io ero abbastanza d'accordo, c'è una ragione, cioè tutto sommato. E non puoi arrivare tu e scombinare le carte senza capire come funziona, come non funziona e via dicendo, insomma. Quindi tutto sommato, per quanto brutto possa essere stato, c'era un senso in tutta questa cosa. Va bene, questo per dire insomma che purtroppo la sinistra in Italia ci ha avuto una grande tradizione che è stata distrutta dalla campagna, proprio dalle iniezioni ideologiche del post P2, del berlusconismo, che in realtà non era nient'altro che la prosecuzione di quello che già succedeva nei 50 anni precedenti e che poi è successa nel ventennio precedente ancora. E quindi alla fine, nel momento in cui questa evoluzione poteva veramente dare uno smacco e cercare di portare veramente un qualcosa di nuovo, di innovativo, alla fine si stava già democristianizzando il partito e soprattutto quelle realtà che erano quelle che erano attente alla vigilanza, in realtà non erano nient'altro che gli stessi poliziotti del Partito Comunista che c'erano prima e che erano pronti a stroncare qualsiasi tipo di obiezioni all'interno di quella realtà. Quindi fu quell'occasione perduta, fu quella amarezza dovuta anche a quella perdita di verginità, insomma, diciamo così, del mio modo di vedere la politica, che penso che capiti a qualsiasi ragazzo dei 20 anni ancora pieno di convinzione e di speranze nei confronti di un mondo che un giorno avrebbe potuto cambiare anche grazie a loro. Ma non così non è stato. E così non sarà ancora per molto tempo, perché questa doveva essere la puntata dove avremmo dovuto parlare degli allineamenti, del modo di non allinearsi al pensiero, alle informazioni, a quella che è la visione collettiva di quello che sta succedendo intorno a noi. Mai allinearsi, sempre avere un pensiero critico, sempre avere un dubbio, sempre obiettare, perché è il punto di partenza per capire se quello che sta succedendo è veramente la verità. Se no, se noi prendiamo tutto quello che succede intorno a noi come verità, alla fine hanno vinto loro ancora una volta e ancora una volta e ancora una volta. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, questa sera ultima puntata della settimana delle orazioni della sera, alle ore 20, dalle ore 20 alle ore 20:45, alle 21:30 invece torniamo con una puntata un po' strana, un po' tampone, diciamo, di quando eravamo futuro, e parleremo delle colazioni della Pasqua di quando eravamo ragazzini, anzi di quando eravamo futuro. Stai ascoltando Runtime Radio.